YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Sto cedendo, la terza ora sto cedendo, Daniele, dammi dopo la notte elettorale, sono più vispo io che sono un vecchietto. No, dai, non dire così. La notte elettorale ci ha provato definitivamente. Però devi ammettere, che bravo nei pronostici, ci ho preso, guarda, te l'avevo detto, ci ho proprio preso, vince facile Pioli. E infatti è stato Pioli l'allenatore scelto dall'Inter, sì, no? Perché invece sulle elezioni americane tu... Cosa avevo detto? Non mi ricordo. Tu avevi detto vince facile Hillary. Non me lo... l'avevo detto? No, ma io parlavo di Pioli, credo. Ah, di Hillary Blasi parlavi. No. Sì, allora, va bene, ho sbagliato. Abbiamo sbagliato, per fortuna non abbiamo fatto troppo di America. Abbiamo sbagliato in tanti. Io che, no, perché non ha vinto, no, Hillary? Io che pure ero una grande supporter del governatore Gary Johnson. Io, lo sai, due libertà. Assolutamente, governatore Gary Johnson per tutta la vita. Io avevo detto, vince Hillary, ma di poco. Io invece no, mi ero proprio sbilanciato. Cioè io mi ero preparata. Vince facile. Io mi ero preparata una notte combattuta, ma con vittoria finale di Hillary. Ma e quella invece... notte lì, quando... ho visto che la Florida, cioè, andavano avanti minuti, ma... E allora poi ti buttavi sul Michigan e poi ti buttavi sul Wisconsin. È stata una Sembra bella diretta. Sembra risico sugli stati americani, ma lui è già cambiato, vuoi sentire? È già, sentiamolo. Sembra già uno statista democratico. Mr. President. I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us, it's about us, on our victory. And I congratulated her and her family on a very, very hard-fought campaign. I mean, she fought very hard. E beh, insomma, ha fatto, lei ha combattuto in maniera molto dura, molto aspra, ma la cosa importante è che dice non è ancora president, adesso mi sono un po' allargata, sì, lo diventerà presto. A gennaio. It's about us. Ah, cioè non è una cosa detto. Che riguarda me, non sono io Donaldo, it's about us. Questa sì, la statista, unire tutto, poi ha detto tutti, è una cosa che riguarda noi, grande onore incontrare Obama, insomma è tutto, niente, un nuovo Trump, chissà, magari durerà, non e durerà, Obama non come so. L'ha presa? Obama, niente, da quello che è sempre stato così ecumenico nel... io me l'aspettavo questo Obama, questo discorso, questo. Sentiamo. Yesterday, before votes were tallied, I shot a video that some of you may have seen in which I said to the American people, regardless of which side you were on in the election, regardless of whether your candidate won or lost, the sun would come up in the morning. Allora lui l'aveva detto, la notte elettorale, qualsiasi cosa succeda, domani il sole sorge di nuovo. E tra l'altro il sole sorge di nuovo, per noi è bello, no? Come frase, ancora sì, in effetti, ha molti sensi e ci piacciono tutti. Ma? Daniele, non abbiamo capito nulla. Io non avevo capito nulla. Qualcuno però ci aveva capito. Qualcuno aveva capito di più. Allora lo chiamiamo in causa? Lo chiamiamo in causa il direttore di TGCom, Paolo Liguori, al telefono c'è? Sì, direttore, eccomi qua. Buonasera, ciao. Eccoci. Buonasera, guardate, non è che io avessi capito tutto, per niente, però sono abbastanza aperto a capire la realtà. Noi alla fine chi siamo? Siamo persone che descrivono la realtà e io ho visto tanti colleghi in queste ore, in questi giorni, che sembrano dei nostalgici, come quelli che dicevano si stava meglio quando c'era il Duce, si stava meglio quando c'era l'Austria-Ungheria nel Veneto, ma la storia c'ha dei passaggi che non si possono eliminare. Allora, la caduta del muro di Berlino è uno di questi passaggi, l'elezione così come è avvenuta di Donald Trump in America è una cosa che noi dobbiamo accettare, osservare e prendere atto che siamo di fronte a un cambiamento che è epocale, di storia, di realtà, e dobbiamo descriverla bene. Invece è stato fatto l'esatto contrario. Per esempio, io avevo capito un po' di più della media vedendo che cosa? Il più grande detrattore di Trump, Michael Moore, due mesi fa ha fatto un suo filmato. Vero. Dal quale si capiva perché Trump avrebbe vinto in certi posti. Guardate che Michael Moore non è un sostenitore di Trump, è un detrattore pazzesco, però molto lucido. E però spiegava chi è il popolo che voleva vendicarsi dell'establishment catalizzando il voto su Trump. Quando lui elencava questi settori, queste persone, io sentivo questa cosa e dicevo, ma questo secondo me è più lucido delle analisi del Washington Post o del New York Times. Questo è uno che sa come funziona, anche se lui è caustico, eccetera. E questo vale per il prima. Poi, nel momento stesso, e qua l'ha detto bene Marta, io come Marta ho avuto un brivido alle 3:05 di notte, quando sono arrivate contemporaneamente i risultati del Texas, che addirittura non si sa perché i giornali dicevano avrebbe visto prevalere Hillary, e la notizia contemporanea di Trump che aveva recuperato ed era in testa in Florida e Ohio assieme. Ho fatto due conti e ho detto, ma guarda che questo ce la può fare. Sì, poi a un certo punto guardavamo il Michigan, eravamo diventati tutti espertissimi. Il Michigan è solo il Michigan, ma è anche la Pennsylvania, la North Carolina. Si tratta di stati da sempre democratici, tutta la costa est. Si dice per abitudine, vizio e pigrizia, Hillary e i democratici hanno prevalso nella costa est. Hanno prevalso a New York, hanno prevalso nel Connecticut, poco più. In realtà, se guardate la cartina bene, la mappa, nella costa est è stato uno sfondamento enorme, e negli stati industriali, dove ci sono gli operai, i lavoratori di aziende che hanno chiuso, sono andati a votare Trump in massa persone che non votavano mai. Non andavano più a votare, oppure addirittura dei democratici che hanno cambiato bandiera. Queste cose bisogna purtroppo farle capire bene, perché in Italia ancora si sentono molti luoghi comuni. E perché? Perché in America la narrazione era sbagliata, il cosiddetto storytelling, sai che oggi è molto di moda. Certo. Ma dateci i fatti, no, ti danno lo storytelling. Allora, in Italia noi facciamo lo storytelling dello storytelling, cioè la narrazione di terza mano. La narrazione di terza mano è abietta, cioè ci ha fatto pensare prima che Trump fosse un pagliaccio, poi che fosse proprio uno pazzo. Ora, Michael Moore mi ha fatto vedere un Trump che ai tempi dello scandalo, quello di Monica Lewinsky, della famiglia Clinton intesa come Bill, difendeva la donna Hillary come una donna coraggiosa, certo, che si batteva per il marito. Voi, se non so se l'avete visto quel filmato, a chi capita lo guardi e capisci allora che in America si parla un linguaggio più semplice, più diretto, naturalmente sia dei giornali. La cosa che mi ha impressionato tantissimo, sapete qual è? La televisione. Nel paese della televisione, la televisione è riuscita per alcuni mesi a non far parlare e esprimere i cittadini americani. Noi siamo abituati ad una televisione rozza in Italia, popolare, che però fa parlare milioni di persone. Tu guardi 6 programmi populisti della televisione italiana e più o meno l'aria che tira la capisci. Certo, la famosa pancia. In America, con sta televisione via cavo per abbonati, sterilizzata, eccetera, sono riusciti negli ultimi 4 mesi a non farlo comparire questo ferramenta del Wisconsin, che poi alla fine si è scoperto che potava. Era decisivo. Dobbiamo fare il traffico. Facciamo una brevissima pausa per il traffico e poi continuiamo a parlare con il direttore di TGCom 24 Paolo Liguori tra pochissimo. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta YouTube. And to all the women, and especially the young women, who put their faith in this campaign and in me, I want you to know that nothing has made me prouder than to be your champion. Allora, è sempre orgogliosa Hillary Clinton di essere stata la campionessa delle donne. Ci sarà una donna presidente, ma purtroppo... Le bambine. Sì, devo dire che poi ci sono tanti discorsi sul femminile da fare. Io personalmente non penso che l'America non fosse pronta per un presidente donna. Penso che non piacesse Hillary. Questa è la mia... Ecco, ma questo infatti mi dà il gancio per fare una domanda al direttore Liguori, direttore di TGCom 24 che abbiamo al telefono. Direttore, ha più vinto Trump Trump ha più perso Hillary o ha più perso Obama? Perdonami l'italiano pessimo. Allora, tutte e tre le cose insieme, comunque delle tre direi che l'ordine è il seguente: ha vinto Trump, ha perso Hillary, ha perso Obama. Tutte e tre le cose ci sono, tutte e tre. Parlavamo prima della vittoria di Trump, che non è stata raccontata perché non è stato raccontato chi avrebbe sostenuto Trump. Però la questione di Hillary, che invece avete fatto sentire voi, questo è un errore nostro. Questo è un errore tutto nostro, non è neppure americano. In America tutte le persone che conosco non davano grande fiducia a Hillary, né tantomeno come donna di Stato e neppure come campionessa delle donne. Noi invece in Italia siamo andati avanti con questa ideologia di quarta mano, di bassa lega. Insomma, come si fa a dire che Hillary rappresenta le donne? Hillary al massimo può essere una campionessa delle brave mogli che lottano per il marito, ammesso che non l'abbia fatto per difendere il potere del marito e della famiglia Clinton, ma ha lottato per il marito contro tutte le donne che l'hanno denunciato. E non si tratta delle ragazzine che al liceo o in ascensore dicono: sai, mi ha guardato male Trump. Qua si tratta di ragazzi anche minorenni che ce l'hanno avuto addosso Bill Clinton. Queste sono cose provate, conclamate, e lei le ha massacrate quando ha potuto. E come donna di Stato, Hillary non è immune da colpe, ha provocato guai all'amministrazione Obama, tant'è che l'amministrazione Obama, migliore di quello che non sia stata Hillary, l'ha allontanata, era super ministro, e loro gli hanno chiesto le dimissioni, Obama gli ha chiesto le dimissioni. Sapete benissimo che Obama aveva voluto chiamare Hillary nel suo governo per riappacificarsi, era certo. Stata la sua grande nemica nella campagna elettorale, la lobby che sosteneva Hillary, Obama la detestava. Tra l'altro, dovuto costruire un'altra, e sapete benissimo che in America queste cose contano. Il trust Clinton è un trust molto assolutamente negativo, la Clinton molto machine negativo. La Clinton machine, benissimo. In Arkansas lui ha fatto due volte il governatore, poi ha fatto due volte il presidente degli Stati Uniti. Hanno perso a casa loro. No, infatti. Li conosce, li evita. Infatti era allora, singolare come ad esempio come si sia diffusa in Italia, nella sinistra italiana, tra le donne italiane, l'idea che la Clinton, responsabile della morte dell'ambasciatore americano a Bengasi, responsabile di una serie di finanziamenti con paesi discutibilissimi e finanziamenti insomma molto vicini a quelli che vanno pure all'ISIS, come si sia sparsa la voce che una Hillary così possa essere la rappresentante delle donne, è una pazzia. Toste le affermazioni del direttore. Toste queste affermazioni, effettivamente a me aveva forti, fatto. Ma sono tutte circostanziate, voglio dire, sono tutte provate, ci sono processi. La Corte Suprema l'ha giudicata Hillary, ha detto è colpevole, però non la condanniamo perché eravamo alla vigilia delle elezioni. Ma non è che ha detto è innocente, non è che ha detto vogliamo prosciogliere, ha detto ha sbagliato moltissimo. Su questo fronte, per fare un po' di pubblicità anche al sito del Sole, al Sole in generale, Luigi Zingales ha scritto un articolo bellissimo che potete ritrovare. Ma il Sole ha sempre scritto cose vere su questo, infatti voi andate dove spiegava perché Hillary effettivamente era probabilmente il candidato meno adatto. Tra l'altro ha fatto un gravissimo errore in campagna elettorale che in un certo modo ha un po' svelato un atteggiamento che i Clinton hanno e che forse possiamo sentire. È stato definito il video per cui Hillary ha perso, forse sentiamo, è un po' eccessivo, però Hillary. Si può sentire. To just be grossly generalistic, you could put half of Trump supporters into what I call the basket of deplorables. Cioè, lei dice, potresti mettere la metà degli elettori di Trump nel cestino che io definisco dei deplorevoli. Dei miserabili, addirittura. Tremendo. Insomma, anche questo è un errore gravissimo, io direttore devo dire Liguori. Io penso che questo sia stato l'errore più grave, perché nel disconoscimento dell'elettorato di Trump si era creato almeno un punto di forza a favore della campagna di Hillary. Cioè, sono tanti, sono rozzi, sono dispersi, proletari, operai dispersi nell'America, non hanno un'identità, una bandiera, una connotazione. Oh, ma con quella frase gliel'ha data lei. È vero. Gli ha detto deplorevoli di tutta America, unitevi. È un po' sembra il manifesto del partito trumpiano scritto da lei. giusto. Deplorevoli miserabili, unitevi. E loro si sono guardati e hanno detto, e loro si sono guardati e hanno detto, certo che siamo miserabili, però, ci avete ridotto voi così. E però, qui scatta la terza domanda che hai fatto. Quanto ha perso Obama? Obama ha perso moltissimo. Se non ne fosse convinto lui per primo, che è una persona intelligente, avrebbe avuto un altro atteggiamento dopo le elezioni. Invece ha avuto questo atteggiamento molto aperto e molto disponibile al nuovo presidente, perché sa che può salvare la sua faccia facendo l'uomo di Stato nel senso proprio della parola, cioè l'ex presidente a disposizione della nazione. Questo lo può fare, perché Obama ha sbagliato tanto, e ha sbagliato non solo sulla politica estera che noi abbiamo criticato, non ti voglio dire del Sole 24 Ore perché certe cose le ho imparate lì, dagli articoli di Negri, da queste cose buonissime che scrive il Sole 24 Ore, ma ha sbagliato anche nella politica interna, perché nella politica interna pensava di fare una piccola rivoluzione. Non ci è riuscito nel primo mandato, ha voluto forzare le cose sul secondo. Le due prime cose che farà Trump saranno l'abolizione del fallimentare Obamacare, e non è detto che non facciano poi alla fine una riforma migliore. Certo. E comunque anche questa che riguarda Wall Street. Vedete che è successo alle prime ore, proprio quando ci siamo sentiti a caldo anche con Daniele, a TG.com, sembrava che ci fosse la catastrofe delle borse. Sì, sì, ero in diretta e si parlava di future, ribasso del 5%. È stato il tracollo degli speculatori che avevano scommesso su Hillary. Passato il tracollo in 6 ore, adesso le borse volano, perché pensano, questo Trump darà respiro. Ecco, ok, come simbolo va bene, l'abbiamo raccontato, però direttore, come presidente, qualche incognitina però c'è, qualche rischio. Moltissimo, per noi europei una tragedia, perché saremo costretti a assicurarci prima di tutto da soli la sicurezza. Certo. Non verrà più nessuno. Perché lui guarderà solo a casa. Esatto. Secondo, dovremo sull'economia far conto molto veramente su una ripresa, su una crescita nostra, perché altrimenti gli accordi bilaterali non ci porteranno da nessuna parte. Loro stessi, molti li vorranno disdire. E insomma, noi non abbiamo in mano il debito pubblico americano come ci hanno i cinesi, per cui loro possono pure evitare di commerciare con noi e possono pure essere concorrenziali se riprendono la crescita della produzione su tutti i prodotti europei. Quindi per noi sarà una prova dura, come è stata quella dopo il muro, cioè o ce la facciamo o ce la facciamo, oppure non meritiamo di farcela. Direttore, grazie per essere stato con noi. Grazie davvero. Moltissime altre grazie domande sul giornalismo. Ti richiamiamo un'altra volta. Così. Faremo un'altra volta. Ci abbiamo un'epoca davanti. Esatto. E dovremo commentare. Esatto. Ciao grazie, direttore. Ma adesso cosa facciamo? No, vorrei, et Marta vorrei, Cagnola. Et di Bellasio. Questo è Radio Tube col cancelletto. Scusa, non oggi ti passo ancora di più. No, ma fai benissimo. Io per la voce. Io sto proprio... Però sei la voce. Molto in forma invece fisicamente. Cioè sembri uscire, però questo raffreddore c'è. Eh sì, cioè, diciamo che c'è il raffreddore, sono truccata, bisogna una piccola pausa. Facciamo una cosa, ce lo ascoltiamo un Crozza prima della pausa? Ma poteva mancare un Crozza sul meglio di Trump o il peggio, a seconda dei punti di vista. Dai, allora ascoltiamoci Maurizio Crozza e poi facciamo una brevissima pausa. Anyway, now I am the president. Sì, adesso io sono il presidente. USA! USA! And I'll be the president. E io sarò il presidente. Yeah, of all of you. Di tutti voi. Yeah. Di tutti voi. Of you. Di te. Of you. Di te. Of you. Di te. Cosa c'è? Of you. Yeah! Di te. No, ma è impazzito. Ma why? No. People. Sì. Clap me. Sì. Il pubblico l'applaude. I'll be the president of all of you. Io sarò il presidente di tutti. Yeah. Sì. Gay apart. A parte gli omosessuali. Vabbè, però. Vabbè. I'll be the president of all of you. Di tutti? No, ma perché? Apart gay and sick. Ah, anche i malati, a parte gli omosessuali. Yes, because too much expensive. Costano troppo. Yeah. I malati. Ah. Salam aleikum. No, Mr. President. Oh, sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Gigi Telesforo. Feel the vibe. il sabato e la domenica a partire dalle 19.15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Tecnologie e logistiche di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Vi presenta. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. YouTube. E rieccoci per la seconda metà di RadioTube, che è l'ultima mezz'ora del sabato del villaggio. Che cosa stai facendo? Ah, sono agguerrito. Perché? Mi sono ricordato, lo volevo dire all'inizio della trasmissione. Sì? Basta sto fatto che vai a TV Talk su Rai 3. Ma sei geloso di Bernardini? Sono geloso di Bernardini, della barba di Bernardini. Cos'è? Un altro co-conduttore tuo? Non ho capito sto fatto che vai. Sei ospite fissa. Umilmente, no, ogni tanto. Ma sono molto contenta perché è una trasmissione bellissima. Non chiamarla più. Massimo, sono geloso. Non chiamarla più. Ma pensa a te. Va bene, allora, ancora qualche volta. Ti faccio un quiz musical televisivo perché voglio entrare nell'argomento di cui parleremo tra poco con un ospite che sono molto contenta di avere. Sembra allora, rischia tutto. Sono pronto. C'ho la cuffia. Mi presento sulla musica degli anni 90. Cosa ti ricorda questa? Allora, pomeriggio. Doppio slalom. Bravo. L'ho presa. Ho vinto. L'ho presa. Seconda. Facile. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. La so. Dai la risposta. Beh, questo è facile. Questa è facile. Ok, anche la terza è facile. Eccola qua. Dovresti averla già indovinata. Posso comprare una vocale? Dovresti averla già indovinata. Chiedo l'aiuto da casa. Vabbè, tanto te lo dicono loro. Sì, cioè, non era Rai. Allora, però, sai che però non ero tanto convinto. Fino al ritornello non ero tanto convinto. Il nostro ospite in realtà aveva dato un altro aveva dato un altro titolo. Non era Rai, ma cioè? Non lo dico, mi vergogno, sono una ragazza timida. Allora, Telefona quando arrivi è un libro molto divertente, edito da Sperling e Kupfer, che racconta un po' tutti questi ricordi che ci tornano alla mente, tra ricordi televisivi, ricordi tecnologici, le nostre abitudini, tante cose divertenti degli anni 80 e 90, insomma, di tutti quelli che hanno tra i 35 e i 40, anche i 45 anni, più o meno quegli anni lì della nostra infanzia e giovinezza. L'autore di Telefona quando arrivi è Paolo Ruffini. Ciao Paolo! Buon pomeriggio, buon sabato, grazie dell'ospitalità. Io, scusate, posso dire subito una cosa, Daniele? Sì. Allora, scusami, ma il fatto che tu abbia riconosciuto doppio slalom e non abbia riconosciuto non è Rai. E la dice molto su... Hai capito? Credo di avere mandato anche la letterina per parteciparvi. A come doppio slalom, Salvini, come doppio, perché te, cacchio, perché doppio slalom prima condotto da Corrado Tedeschi, poi da Bonolis, quindi te quando vedevi con Tedeschi Bonolis andavi in visibilio, dici, Più per Tedeschi, devo ammettere, perché Bonolis, io ho due anni più di te. Ognuno quindi con gli ormoni ci fa cosa vuole, quindi ci mancherebbe. Tu eri più per non nella Rai. Sì, no, ma io, vabbè, no, ci mancherebbe. Ma dal libro, guarda che dal libro in realtà è un romanticone pure lui. No, è vero. Io sono molto romantico, molto romantico. Doppio slalom era verso le 17:30, canale 5, nella Rai, sai, dopo scuola arrivavi e quello era il nulla più il nulla meglio confezionato che la storia della TV abbia mai verissimo. Ma non a caso io ho scelto queste trasmissioni, perché uno dei capitoli, ci sono tanti piccoli capitoli veramente teneri che ci riportano a tanti ricordi, Hai parlato di una ode al pomeriggio, perché effettivamente hai trovato una chiave giusta, cioè per noi, ma più o meno in tutte le età, la cosa bella dell'infanzia e della giovinezza è che c'è il pomeriggio. Esisteva il pomeriggio. Il pomeriggio è bellissimo. Sì, il pomeriggio è qualcosa dove alla fine tu riesci a sconfiggere il tempo, no? Quando l'eterno conflitto dell'uomo sul tempo, sul Cronos, viene sconfitto esattamente nel pomeriggio, e il modo per sconfiggere il tempo è perderlo, cioè il pomeriggio perdi tempo, da piccolo la perdita di tempo che tu fai di pomeriggio realizzando cose inutili, guardando la TV, facendo una merenda che insomma non è mai frugale ma è sempre rilassata, ecco quel momento in realtà lo conquisti, insomma il pomeriggio è una spremuta di nulla che come un miglior frullatore lascia sedimentare le bucce migliori per dare un sapore alla tua vita. È il momento della vita migliore di ciascun adolescente, secondo me, il pomeriggio. Verissimo. Il pomeriggio. Cavolo, ma oltre romantico, visto queste poesie poeta, improvvisate. Che poeta, Paolo. Ma una ostentazione insopportabile, chiedo scusa. Tornerò a essere cretino per prestissimo, scusate. No, però il pomeriggio. Perché su Radio 24 mi dà un tono d'autore adesso, mi sento sto cavolo, capito? Però no, il pomeriggio mi veniva in mente perché giustamente ricorda Paolo che è un po' il racconto dell'ultima generazione senza il telefonino nella propria vita. Per cui il pomeriggio esisteva anche di più perché, diciamo, c'erano meno strumenti tecnologici che quel tempo lo riempivano tutto. Certo. Guarda, c'erano ovviamente meno distrazioni, e anche quando c'era la distrazione, che adesso sembra una barzelletta, ti ricordi che a noi ci dicevano non guardare troppa TV? Sì. Ora vabbè, non guardare troppa TV è un ammonimento, sciocco ovviamente. Cioè, no. Ora la TV per esempio è un elettrodomestico che tu vivi tenendo il telefono acceso o tenendo il computer acceso, e molto spesso twitti quello che vedi oppure commenti live blogging quello che vedi o scrivi su Facebook quello che vedi. Quindi anche la TV ai nostri tempi, io mi ricordo frasi del tipo, la mia nonna diceva cosa danno stasera? Sì. Sul 6 c'è un film, su Italia 1 era il 6, il 6, no? Certo. E ora c'hai 1600 canali, capito? Pensa che a casa mia abbiamo avuto Canale 5 sul 4 e Rete 4 sul 5 per tantissimi anni. Ma perché voi in Brianza fate delle cose strane? C'erano queste cose alternative. Sì, bello, bello perché creativi. Paolo racconta che in sostanza il 7 era un po' la fine dell'universo. Cioè dopo le colonne d'Ercole. Sul 7 Tele Monte Carlo e poi boh. Poi c'erano le famose TV locali, no? Sì. Adesso non vivi più nemmeno quelle. Cioè adesso è proprio... c'è ancora qualcuno che dice che la TV di oggi fa schifo, in realtà c'è un livello culturale pazzesco, se pensi che ci sono canali tematici, su documentari sulla storia, cartoni animati, ci sono 20 canali dai 3 ai 6 anni, dai 6 ai 12, cioè oggi c'è veramente tutto e con altissima qualità. Prima c'era meno, con meno qualità, però ci andava molto meglio, questa è la cosa, non si sa perché ci lamentavamo molto di meno, forse è cambiato il gusto del pubblico, sai, ovviamente noi ci guardavamo il Festival Bar, c'era Denaro che non aveva nessuna ambizione a farci pensare che cantasse dal vivo, era un playback orrendo con l'Arena di Verona che si alzava in piedi a ballare. Oggi se Gianni Morandi va a fare la spesa domenica gli facciamo un culo così. È vero, è verissimo. A proposito di social, tu dedichi molto spazio in filigrana alla tecnologia, sempre in contrapposizione ai ricordi. Mi fa un po' impressione perché la nostra generazione è arrivata al momento della nostalgia, perché noi cominciamo a vedere alcune cose come lontane, ad esempio Snapchat. Cominciamo a invecchiare, cioè volevi dire questa cosa qua. Però per dire Snapchat, del quale tu parli, è forse il primo momento, il primo social network dal quale noi, insomma, siamo un po' tagliati esclusi. Che noi non capiamo bene, c'è qualcosa che non va. Ma guarda lì, sai, ma io poi dico la mia, non sono ovviamente, non ho forse nemmeno la cultura sociologica adeguata per valutare, dico soltanto che secondo me prima ci andava un po' bene tutto, adesso non riusciamo più a intercettare bene quello che sta succedendo. Quando arriva uno che ti dice facciamo uno snap e te lo dicono 5 persone in un giorno, sì, perché immagino che qualcosa... a te da personaggio famoso, da il selfie sono passati a chiederti lo snap. Cioè, ma scusami, ma adesso no, quanto ti faccio un esempio, quanto ti sembra lontano Pokémon Go? Ah, ma certo, pensa che io ero appassionatissima a luglio. Ma come? Ma luglio di quest'anno? Di quest'anno? Capisci che... Cioè, ora, sembra una cosa sepolta. Cioè, sembra una cosa che sia... Cioè, che ne so, ti faccio un altro nome che... Allora, ti faccio il nome di uno che ha fatto 140 milioni di visualizzazioni. Vuol dire che ogni italiano, cioè, nel senso, non so quanta gente l'ha visto. Il Pulcino Pio. Sì. Preistoria. Ogni italiano due volte, cioè, sarebbe. Ma sì, ma che, tu ti rendi conto cosa significava il Pulcino Pio d'estate di un paio d'anni fa? Cioè che non potevi non parlare del Pulcino Pio. Ma Paolo, ma per chi fa il tuo mestiere adesso? Perché fa il mio mestiere sfida. È un bel casino, sì. Perché c'è un mercato totalmente schizofrenico che si divide appunto tra chi ti dice minchia, non hai visto l'ultima serie? Ma figa, sei un coglione, cioè, la serie è fantastica, figa. Oppure quelli che ti dicono che però non sei aggiornato perché non conosci il gamer, lo youtuber. Sono tutti lavori che io non so, capito? Come quando ti viene qualcuno a farti un'intervista perché esce un film e dici scusa, ma tu dove scrivi? No, io c'ho un blog. Ma blog di che? C'ho un blog sugli animali al cinema. Quindi io, tu avendo fatto un film con i cani, allora ti intervisto. E c'hai una miriade di possibilità, una miriade di occasioni che non sai gestire, capito? E quindi chi fa il mio mestiere si trova un po' spaesato e si ritrova con queste persone che sono degli haters che ti mandano, certo, fango sui social, e poi magari quando ti incontrano ti chiedono un selfie e non sai bene come fare. Tu di fronte agli haters come reagisci? Beh, ci ho lavorato tanto. Ultimamente sono arrivato ad una fase molto misericordiosa e credo che proprio ci siano soltanto le carezze. Sì. Ah, fai come carezze. Cruciani, ti voglio bene. No, ma è la strategia migliore, eh? Strategia assolutamente. Ma no, Cruciani non è che gli accarezza. Cruciani ci fa dei gran soldi e fa bene, la pratica migliore. Cioè, ci ha fatto una allora, che io con Donato da Varese, il prossimo mio libro è su Donato da Varese. Sì. Però cioè, alla fine ora, cioè, la democrazia è diventata una roba che è totalitaria e quindi tu ti devi inchinare ad un potere, al potere di un popolo che però non rappresenta tutti. Quando sui social ci sarà la maggioranza più uno, allora giustissimo, potremo dire veramente che sarà un casino. Paolo, ti chiediamo solo un attimo di pazienza, diamo il traffico, certo, e poi ti rubiamo ancora qualche minuto, anche perché siccome abbiamo parlato del tuo io mestiere, io ho una domanda importantissima anche da una fargli. Domanda che riguarda invece il nostro di mestiere, secondo me, vabbè, traffico due e poi domande. Torniamo insieme tra sì. pochissimo. In radio c'è un pulcino. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Vi presento. Radio Tube. Allora, siamo ancora con Paolo Ruffini, autore di Telefona quando arrivi Sperling e Kupfer. Abbiamo fatto un po' di nostalgia, un po' di passato, un po' di futuro. Paolo, abbiamo parlato del tuo mestiere, quello dell'artista, quello del comico, quello dell'attore oggi. Sì, sì, sì. Ma non che il lavoro del giornalista sia semplice. Ad esempio... Certo, posso, scusami Marta se ti interrompo. Posso chiusare con una cosa, secondo me, che è importante. Quando tu mi chiedevi... Sono stato un po' confusionario quando mi chiedevi ma il tuo mestiere adesso come si fa? Ti prendo un esempio solo, drive-in, no? Certo. Ora drive-in è un cult totale. Allora tu pensa a drive-in oggi, non so, Tini Canzini nell'Orio del Santo col seno un po' in vista, arrivano le femministe, creano un casino, te lo fanno chiudere. Pure Asfidanken, oggi Asfidanken. Gli animalisti subito. Te lo farebbero chiudere subito. Quindi tutto quello che era cult, che adesso è cult e che ai tempi era comunque digerito, adesso sarebbe matematicamente impossibile. Io guarda, facevo Cinepanettone nel 2005, c'era Natale a Miami e l'ho fatto anche quest'anno, si chiamerà Natale a Londra. Ti dico, adesso se diciamo cinque parolacce in più ci massacrano. Certo, parla di parolacce, certo, eh. Certo. Cioè, prima il cinema era, c'era Pierino e Antonioni, c'era, non so, le cose scurreggioni di Renzo Montagnani e Fellini, erano tutti felici. Ora... c'è un bacchettonismo in giro che è una roba pazzesca, capito? È una cosa che è impressionante. Quindi io anche di fronte a questo, boh, dici, non lo so, l'ironia, sta diventando sempre una materia molto sempre più difficile perché tutti si prendono tremendamente sul serio. Quindi battute su, non so, persone omosessuali non ne puoi fare, sugli etero dipende, le donne di sinistra sì. Come dice Luca Bizzarri c'ha un monologo pazzesco, capito? Sì. Quindi non sai mai chi si possa offendere e quindi non offendi più nessuno e quindi la tua libertà non era quella dell'offesa, era quella dello sfottò. E quello dello sfottò adesso viene assolutamente a mancare. Paolo, tu a un certo punto sono scrivi... Sono troppo apocalittico, scusate. No, ma senti, adesso l'apocalisse arriva anche per noi. Il tempietto verde dei giornalini, che tu amavi andare in edicola e ti piace ancora andare in edicola. Allora, scrivi, oggi vado ancora in edicola, ma le cose sono un po' cambiate. Quando mi vede l'edicolante rimane incredulo e dice, ma tu sei... Allora ti chiede una foto e dice... tu dici, volentieri, hai visto qualche mio film? Al che aggrotta le sopracciglia e mi risponde, ma che mi importa dei film? Sei il primo cliente con meno di 60 anni da non so quanto, facciamoci una foto. Quindi voglio dire, l'apocalisse anche per i giornali, insomma, mi è un terrore. A Roma, vicino a via Emanuele Filiberto, c'è un incrocio col Cinema Royal, c'è un hotel che si chiama President, lì c'è un giornalaio che è aperto ancora tutta la notte, credo che sia uno degli ultimi di Roma. E mi ha fatto questa cosa, mi ha detto questa cosa. Era talmente desolato e lui è talmente imperterrito nel tenere aperta anche la notte. Però dice: non viene più nessuno, cioè, io non vedo più un ragazzo che legge una rivista. Niente proprio. Senti, ma io posso farti una domanda sul libro, perché veramente mi incuriosisce, perché è la pagina in cui io mi sono immedesimato totalmente. È un capitolo molto carino che ha poi sotto anche una, come dire, una considerazione sociale interessante. Perché ci piacevano di più le cartolerie rispetto alle giocattolerie? Perché accadeva anche a me. Cioè io proprio godevo entrando in cartoleria, esattamente come lo descrivi tu. Sì, perché? Sì. Guarda, ti dico, perché secondo me in cartoleria avevi e dai la sensazione di essere prezioso acquistando anche un qualcosa con pochissimo, cioè un lapis, non so. Le lapis costano ancora meno di un euro, quindi hai la sensazione di essere un cliente acquistando qualcosa di per te prezioso, che costa pochissimo e durerà tantissimo. Cioè, un lapis, a seconda di come lo usi, può durarti anche più di un iPhone. Quindi è una, è una relazione che tu hai talmente stretta con l'oggetto e con un sacco di sapori, di odori, di tatto. Cioè, in cartoleria hai tutti i sensi che si sviluppano, capito? Scrivi. È una meraviglia totale. Tu scrivi giustamente, la cancelleria è un lusso che tutti possiamo permettere. Bello, bellissimo, bello. Paolo, democratico. Posso salutarti con una frase che mi ha colpito veramente tanto e poi posterò qualcosa sui social? Hai scritto: prego. Penso al fatto che oggi non hai la minima idea di che calligrafia abbia il tuo migliore amico. È vero, vabbè, io posterò qualcosa scritto da me a mano coi su cuoricini. Instagram. Secondo me c'hai i cuoricini, al posto scrivevi delle i. Nei diari, sulla smemoranda scrivevi i cuoricini. Per un certo periodo e poi e poi prendevi gli Uniposca e facevi cuoricini con il nome della persona che ti piaceva sulle cabine telefoniche. Ah, perché c'è il gettone. Dove si mettevano dei gettoni che valevano 200 lire, dove potevi pagarci anche, capito, al bar qualcosa col gettone. Eri un pochino più sfigato, ma te l'accettavano tutti. Come moneta. Potete vedere alla radio, nel risvolto di copertina del suo libro, infatti c'è un gettone, telefona quando arrivi. Grazie a Paolo Ruffini per essere stato con noi. Ci siamo divertiti a essere un po' nostalgici, dai. Cominciamo ad avere un po' l'età anche per quello. Grazie Paolo. Ciao ragazzi. Grazie, ciao Paolo. Senti, ma facciamo in tempo a far sentire gli auguri? Auguri. No, facciamo in tempo a fare sentire, secondo me, i due video della settimana. Ok. Allora, cominciamo allora, con gli auguri. Presenti... Ma sì, allora io presento gli auguri. Allora, al vai mister, con gli auguri. Al mister... No, scherzo. No, non nessun questa mister. Settimana i due uomini più importanti dell'Occidente sono stati scelti. Sì. L'abbiamo detto? No. Il presidente degli Stati Uniti e l'allenatore dell'Inter. Ma non è questo l'ordine di importanza. No, ma non parliamo nemmeno di Inter. Ma non parliamo nemmeno di Inter. No, perché ha compiuto per gli anni la mia stessa età. Altre due squadre. Un ancora bellissimo ragazzo che ha compiuto 42 anni. A te mi sappia che piacciono tutte e due, sia Francesco Totti sia Alex Del Piero. Io sono più per Totti, si sa. Senti Totti cosa ha fatto per Del Piero, senti. Alessà, ho messo la sveglia solo per te. 42 anni, ti stai invecchiando, mannaggia la miseria. Speriamo che sono stato il primo a farti gli auguri. Ciao bello, io mi rimetto a dormire adesso. A presto. Vabbè, numero uno è bellissimo. Alla mia suoneria è Cristian Goldoni in regia, lo considera, sai, lui. E vabbè, dell'altra parrocchia, quella tutta... Laziale. Sì. Invece l'altro video? Oh, bellissimo. Allora, come bellissimo? No, bellissimo perché secondo me è un po' la summa di questi tempi, dei tempi che cerchiamo anche di raccontare noi con RadioTube. Cioè... televisione, realtà, social. Sì. Chi l'ha visto c'è da tantissimi anni, ma veramente decenni. Adesso però negli ultimi anni chi l'ha visto ha anche i social network. Facebook. Certo, ha la sua pagina Facebook e quindi tutte le persone possono mandare le segnalazioni. Ma cosa succede se a mandare la segnalazione è la persona che viene cercata? Ma dai! E per quale ragione? Sentiamo leggendaria Sciarelli. Noi facciamo un appello un'altra volta per questa ragazza che ha 17 anni, si chiama Giorgia Tarroni. Noi abbiamo sentito la zia piangere al telefono, devo dire che lei prende, si vede tutto per un gioco, tant'è vero che si fa viva in un messaggio Facebook e messaggio Facebook, eccolo qua. Vedete che scrive, volevo avvisare tutte le persone che si sono preoccupate per me, la mamma e la zia, non voglio essere cercata e diciamo tornerò. Poi aggiunge, scusate io lo leggo però, la foto su chi l'ha visto fa veramente cagare. Ma insomma, io voglio dire una cosa. Cara ragazza, guarda, i tuoi sono preoccupati, sei minorenne, hanno la responsabilità finché non hai 18 anni, poi ci ha detto piangendo la zia, insomma a 18 anni potrà fare quello che vuole, se la fotografia non ti piace la cambiamo, daccene un'altra tu, però fatti viva con le persone che ti vogliono bene, perché quando qualcuno ti cerca è solo perché le persone ti vogliono bene. Oh, così si fa, bravissima. No, bravissima Sciarelli. Bravissima, a ricondurre appunto alla realtà. Sì, anche perché ha letto senza problemi il messaggio, ha dato la risposta giusta. Brava, bravissima. E noi ci auguriamo che accada quello che ha detto Sciarelli. Molto, molto bene, però secondo me era appunto un cortocircuito tra realtà, assolutamente, cross-mediale. Forse qualcuno direbbe cross-mediale. Urca, io direi che dopo cross-mediale, dopo cross-mediale possiamo chiudere. Sono i postumi della notte elettorale. Ma adesso, domani dormiamo tutto il giorno. Posso fare dei ringraziamenti? Certo. Vorrei ringraziare in regia Andrea Roccabella, mitico, ma anche Pietro Lacorte, Cristian Goldoni, senza il quale non andrebbe in onda proprio ma nulla. Ma senza il quale non staremmo in piedi. Ma poco ma sicuro. Daniele, l'appuntamento? È per il sabato il villaggio alle 15.30. Giusto. Perfetto. Oh, perché prima c'è Dylan Dog. Yes. E invece per RadioTube alle 17 se volete. Sabato prossimo. Ciao.